il vizio. Comunicazione sul tema, dedicato per dovizia di cose a Ettore Petrolini. Io vi vizio, zio, vizio, zio, parente, zio, dell'ozio, zio, vizio, zio, parente, zio, dello zio, zio, vizio, if, gran if, visir, if, io, if, sì, if, vizio, isi, visi, isi, veni, isi, vidi, visi, veni, vidi, visi, isi, vizio, non è vizio, isio, non è vero, isio, vizio, stravizio, con giudizio. Vizio. Zio. Pregiudizio. Zio. Condizio. Zio. Sine qua non. Zio. Vizio. V. Vizio. Vile. V. V. V. V. V. V.